Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, quante cose anche questa settimana. Voi vi siete preparati? Intanto faccio i miei complimenti per essere già sul pezzo, essere già qui a Non ci sono più le mezze stagioni, pronti ad ascoltare e a far naturalmente macinare le vostre idee, le vostre riflessioni, per poi chiamare il numero verde 800 24 00 24 sulle notizie della settimana. Inutile dirselo, le primarie del PD che infiammano, le primarie del PDL che sfumano, almeno a quanto sembra, l'ILVA e poi tutta una serie di cose che vi ricorderò dopo. Però tra poco ci sarà naturalmente l'opinionista estemporaneo, come sempre, e il quale ha un certo ottimismo nel suo libro e dice, tra le altre cose, che l'Italia di oggi è spaventata, di cattivo umore, impaurita. Ecco, voi immaginate, no? Abbiamo un po' tutti per la testa queste cose, le notizie, la crisi, una serie di preoccupazioni, il futuro che si vede piuttosto fosco. Ecco, io ero al supermercato ieri, in un supermercato di Milano, che dovevo fare la spesa, e proprio guardando distrattamente, presa invece da questi pensieri, quindi con la mente altrove, anche alle notizie che pensavo per oggi con voi, ho guardato verso uno scaffale, quando gli occhi guardano ma non vedono, e ho visto un pacchetto di pane che era probabilmente stato abbandonato lì, e leggo con un certo stupore, una certa ansia: pane torbido. Mi sono fermata un attimo e ho detto, come, anche il pane è torbido, anche il pane può essere considerato una caratteristica già così diffusa. Lo acchiappo, lo porto verso di me, questo pacchetto. Nel portarlo verso di me si raddrizza e leggo pane morbido, cioè la M era nascosta dietro perché il pane era cartocciato, e ho letto la T. Questo per dirvi veramente in che clima viviamo. Come si fa a pensare che vedi un pacchetto di pane al supermercato e leggi pane torbido? Vuol dire proprio che i pensieri sono torbidi, che la situazione è piuttosto tesa. Questo è il clima di Non ci sono più le mezze stagioni, ma quali sono le notizie di questa settimana? Tanto per, diciamo, metterci di buon umore a proposito di quello che stavo appena dicendo, ecco, l'IMU arriva la stangata, notizia di ieri, si pagherà tra i 470 euro e 1200 euro, fino ai 1200 euro per la seconda casa, quindi le tredicesime, almeno per quelli che hanno delle normali tredicesime, potranno sfumare. E poi il record di disoccupati, ieri sono arrivati i dati Istat, mai così tanti disoccupati, 2,9 milioni in Italia, e la leader della CGIL ci ha aggiunto il carico del 90, dice nel 2013 andrà anche peggio. Monti che da una parte rassicura, dall'altra ogni tanto butta delle sassate nello stagno dicendo il sistema sanitario così com'è è a rischio, e tutti pensano, Dio, cioè, almeno quello, almeno una sicurezza in Italia, qualcosa che ha fatto dell'Italia, insomma, è un'eccellenza in questo senso, pur con tutte le sue magagne, la mala sanità eccetera, però un sistema sanitario che ci invidiano da tempo un po' in tutto il mondo, soprattutto prima ma anche adesso, no? Nato nel 1977, poi si corregge con gli spasmi generali, le polemiche, il terrore eccetera, dice no, per carità, è sostenibile, però bisogna cambiare un po' di cose. L'ILVA, con tutto quello che sta succedendo, ci mancava anche la tromba d'aria purtroppo, è stato varato il decreto dal governo per far ripartire la produzione contestualmente alla bonifica degli impianti, però i giudici non ci stanno, e proprio ieri c'è stato tutto un susseguirsi di notizie, di dichiarazioni. La procura di Taranto sta valutando se sia incostituzionale questo decreto che praticamente vanifica tutta l'inchiesta dei giudici e i loro provvedimenti. Poi, fra le varie notizie, l'abbiamo detto, le primarie PD e PDL, il maltempo purtroppo che ha colpito ancora, cos'altro possiamo dire? Beh, anche questa legge, finalmente legge, quella che parifica figli naturali e figli legittimi. Figli naturali, sapete, sono quelli nati fuori dal matrimonio. Fino a pochissimo tempo fa c'erano delle forti discriminazioni, adesso almeno non ci sono più figli della pecora nera e della pecora bianca. Queste alcune delle notizie. E voi, per esempio, che pronostici fate su queste primarie? Leggo adesso il primo titolo del Corriere, anche di Repubblica. Renzi ora tende la mano a Bersani, se perdo nessuno griderà i brogli. Che fino a ieri invece poi il comitato renziano, qualche piccolo sospetto l'ha lanciato lì. Insomma, un po' di veleni in questi giorni. Domani vedremo come andrà a finire. Ma come sempre c'è anche una... motivo ogni settimana per dire che non ci sono più le mezze stagioni. non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Una cosa un po' particolare, sempre da supermercato. Ieri il supermercato mi ha sconvolta, da questo pane torbido in poi. E un altro farinaceo guardavo, no? E ho guardato dei crackers, di una specie di crackers, un po' a forma di ovetto, insomma, molto sottili, di una famosissima marca, famosissima che non sto qui a citare. Ma la cosa particolare è che finora ognuno vantava nei propri prodotti, che so, un elemento particolarissimo che non c'era in altri, una bassissima quantità di grassi, quel cereale introvabile, biologico, un elemento straordinariamente antiossidante. Invece questi crackers di questa famosissima marca, che cosa enfatizzano? La presenza di acqua in questo prodotto, di una grande quantità di acqua. Io mi sono messa a ridere, non ci credevo quando l'ho visto. E l'acqua è anche nel nome di questo prodotto, per sottolineare l'importanza. Immaginate, nei crackers. E vi leggo esattamente che cosa c'è scritto poi per ulteriormente sottolineare la preziosità di questo prodotto e la particolarità. L'acqua è una preziosa alleata per il tuo benessere quotidiano. Bere almeno 2 litri d'acqua, lo sappiamo tutti da tempo, al giorno è un'abitudine fondamentale per stare e sentirsi in forma. E poi, come secondo ingrediente di questi crackers, proprio ad esaltare la particolarità, la peculiarità, l'acqua è il secondo ingrediente al 20%. No, vi dico, non ci sono proprio più le mezze stagioni. Ma adesso, signore e signori, vado a presentarvi, ricordandomi ancora una volta il numero verde, che è numero quindi anche ecologico, per non disperdere nell'ambiente le vostre idee, il vostro tempo: 800 24 00 24. Ma per convogliarle qui a Non ci sono più le mezze stagioni, chi è l'opinionista estemporaneo di oggi? Aldo Cazzullo. Buongiorno. Benvenuto, caro Aldo. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Tu hai visto del pane torbido in giro per caso? No. No, niente pane torbido, meno male, ma già l'ansia mi cresceva. Perché Aldo Cazzullo, lo conoscete benissimo, giornalista, editorialista del Corriere della Sera, inviato, ha scritto un libro, appena pubblicato un libro, L'Italia se ridesta, è ottimista, almeno Aldo, quindi pane torbido. Ma Roberta, più che ottimista io sono fiducioso. Fiducioso. L'ottimismo è una categoria, lo spirito, un'attitudine, un sentimento. La fiducia si basa invece sui dati di fatto. Io sono convinto che l'Italia abbia un enorme potenziale di sviluppo. Noi siamo convinti che il mondo globale sia una fregatura, perché il lavoro va all'estero e qua arrivano gli immigrati poveri. In realtà il mondo globale per un paese come il nostro è una grande opportunità. Ci manca soltanto un po' di fiducia e di consapevolezza di quello che siamo e di quello che possiamo fare. Tu hai fatto un bel viaggio in giro per varie città italiane. Per esempio, dici di Milano è la nostra New York. A me piacerebbe pensarlo, però sai che non riesco a convincermene di questa cosa. Ma vedi, Milano è l'unica città italiana veramente internazionale, con tutto questo quello che altro. Di bello e di brutto questo comporta. Di brutto è che nel centro storico non vive più nessuno, se non qualche rentier, qualche ricco fortunato o qualche dirigente di azienda in nota spese. Esattamente come a Manhattan, esattamente come nel centro di Parigi o di Londra. Il centro di Milano, come il centro di New York, di Londra e di Parigi, è di chi se lo prende. E quindi magari il sabato pomeriggio, tra poco, verranno i ragazzi della periferia a fare una passeggiata, domani verranno magari i tifosi, e, che ne so, il 2 giugno mi ricordo che nel centro di Milano non c'era un milanese, però c'erano i pellegrini che erano venuti per la visita del Papa. E poi Milano è una megalopoli in realtà, noi pensiamo ancora alla cerchia dei Navigli, alla cerchia dei Bastioni, ma Milano comincia a Gallarate e finisce a Bergamo, è l'unica vera e grande megalopoli italiana insieme con Napoli. Dove finisce Roma cominciano i Prati, mentre dove finisce Milano cominciano comincia Cormano, comincia Pera. Mi hai quasi convinta, va, cerco di consolarmi. Scusami, Milano mantiene la sua centralità, Mediolanum, la città che sta in mezzo, tutte le strade portano a Milano, moda, editoria, design, finanza. Una volta portavano a Roma, non ci sono più le mezze stagioni, quindi è proprio vero. Aldo, però tu mi devi dire a questo punto, tu senti un profumo? attraverso la radio, non siamo ancora arrivati. Un profumo di sinistra, avendolo detto che lui sentiva un profumo di sinistra. Tu lo senti questo profumo di sinistra? Beh, però vedi, perdonami, intanto queste primarie hanno confermato che la tesi del risveglio non è così campata in aria. Tu citavi giustamente prima l'attacco del libro, no? L'Italia oggi è un paese impaurito, di cattivo umore, spaventato, i soldi non girano, no? Chi li ha se li tiene stretti, non investe, non rischia e addirittura non spende, non consuma. Dice, oddio, che accadrà domani, me li tengo sotto il materasso, no? Ecco. Detto questo, però, io i primi segni di risveglio li vedo, non soltanto nel fatto appunto che nel mondo c'è una grande domanda di Italia, le cose che dicevamo prima, che il mondo globale per l'Italia è una grande opportunità, perché siamo il paese della bellezza, della cultura, dell'estro, del prodotto di qualità, eccetera, ma anche per il fatto che dentro l'Italia, in giro per l'Italia, c'è una grande voglia di cambiamento, di novità, di spazzare via il vecchio, di riprenderci il nostro futuro in mano. Continuiamo a lamentarci per una cosa che non conosciamo, il futuro, e che dipende soprattutto da noi. Il futuro non dipende dagli asiatici, dalle multinazionali, dai mercati, dipende da noi stessi. Il fatto stesso che ci sia un sacco di gente che vada a votare, è andata domenica scorsa, tornerà domani, e sarebbe andata a votare anche le primarie del PDL. È uno dei tanti piccoli segni che io vedo in giro per l'Italia di un risveglio, di una voglia di partecipare, di una voglia di riprenderci il nostro futuro nelle nostre mani. Ecco, a proposito delle primarie di domani, vedo dei messaggi che di solito io non cito il numero dei messaggi e di solito non leggo i messaggi, ma uno mi è saltato così all'occhio perché il numero da fare è quello verde per chiamare in diretta 800 24 0024. C'è qualcuno che dice: ribadisco, Biancofiore per domani, cocciutamente. Non sono le primarie del PDL, quelle mi sa che non si fanno più, caro ascoltatrice, ascoltatore, come ti chiami, Cristiano. Poi invece c'è un altro ascoltatore che scrive: Renzi è proprio un piccolo caimano. E un altro dice: vergogna, fate propaganda ingannevole per pro Renzi. Veramente non ho detto nulla su Renzi. Tu vuoi dire per chi voti per caso, se voti Aldo Cazzullo? No, io non voto perché penso che un giornalista non dovrebbe votare le primarie, perché non dovrebbe schierarsi. È già pieno. Beh, però tutti abbiamo che... i nostri convincimenti. Probabilmente no, sì, Aldo, però cioè... secondo me è già pieno di colleghi che si mettono al servizio dei politici, in particolare del vincitore, o che addirittura appena possono cambiano mestiere, diventano politici o diventano showman, diventano personaggi. Io credo nello specifico del giornalismo che ho cercato di praticare con l'Italia Serie Desta, andare in giro, parlare con le persone, studiare e raccontare. Quindi no, non faccio politica e non mi registro alle primarie. Detto questo, io penso che sia Bersani che Renzi siano personaggi di valore. Bersani forse in questo momento dà più garanzie in una fase così complicata, come uomo di governo e di esperienza, è un uomo a cui forse gli italiani si affiderebbero con più volentieri. Detto questo, se le primarie di domani fossero veramente aperte, potessero davvero votare anche quelli che non si sono registrati al primo turno, penso che Renzi potrebbe farcela, proprio perché rappresenta questo desiderio di cambiamento, di innovazione, di novità che percorre il paese, non soltanto la sinistra, ma in generale l'opinione pubblica. E infatti di questa questione delle regole non mi è del tutto chiara, poi cercheremo magari di chiarirla man mano. Tra poco c'è Gina da Imola all'800 24 0024. Poi ti chiederò anche, Aldo, ma dopo la viabilità, perché adesso mi avverte il nostro Paolo Corleone, la parte tecnica, che dobbiamo aggiornare chi sta viaggiando. Seconda notizia dei giornali oggi online è Sallusti, arresto ed evasione. Era stato messo agli arresti domiciliari, poi lui, diciamo provocatoriamente, è uscito e quindi la polizia è arrivata al giornale. Vuole a tutti i costi provare questa esperienza. Tra poco. Sempre Roberto Giordano con voi sino più o meno alle 15, quindi per i vostri interventi al numero verde 800 24 00 24, fate un po' prima. Leggevo anche adesso sulla pagina online del Corriere una critica del New York Times che dice, a proposito dell'uragano Sandy che c'è stato, che ha colpito recentemente la città, dice: l'Aquila esempio da non seguire. Che bell'esempio che siamo. Le promesse non mantenute in Italia sono un monito per la ricostruzione dopo Sandy. Quindi serviamo come modello al negativo, almeno qualche volta. Caro Aldo Cazzullo, opinionista estemporaneo di oggi col tuo libro L'Italia Serie Desta. Capisci a proposito? Roberto, posso dire una cosa? Questo, sì. Mi colpisce molto questo articolo del New York Times, per il semplice fatto che tra le promesse non mantenute ci sono quelle di Obama, che quando venne per il G8 promise di ricostruire una chiesa e non l'ha mai fatto. Guarda, c'è un capitolo dell'Italia Serie Desta dedicato appunto all'Aquila, e mi spiegava il sindaco Cialente che mentre l'Uzbekistan ha mantenuto i suoi impegni, e anche la Merkel onestamente l'ha fatto, invece non soltanto Sarkozy, pace nell'anima sua, ma anche Obama non ha preso l'impegno che aveva, non ha mantenuto l'impegno che aveva preso con gli aquilani. Senti, ma glielo dici tu? Insomma, dovrebbero essere loro, gli americani, i primi a rendere conto delle promesse che non hanno mantenuto. Detto questo, la ricostruzione degli Obama, la ricostruzione dell'Aquila è scandalosamente in ritardo. Però è anche vero che la comunità dell'Aquila ha dato una prova di resistenza incredibile. Io ho trovato veramente delle storie di coraggio, di gente che non si è resa. Ma proprio per questo ha ricostruito la sua bisogna attività, dargli una mano invece 500 che... metri più in là, ha aperto il bar, ha cercato di costruire delle associazioni, una banca di credito cooperativo, insomma tante piccole storie di aquilani che non si sono arresi, che hanno ricostruito la loro città prima ancora di poter riavere il centro storico, cosa che deve accadere il prima possibile. Però gli aquilani non hanno mai smesso di vivere, questo gli va riconosciuto, perché l'Aquila è un po' una metafora dell'intera Italia, un paese colpito al cuore, un paese duramente provato, ma che in qualche modo ha dimostrato di sapere reagire, di sapere dare il meglio di se stesso nelle difficoltà, che è tipico non solo degli aquilani ma in generale degli italiani. Sentirei come italiana Gina da Imola. Gina. Sì, pronto, buongiorno Roberta. Sono buongiorno. Gina da Imperia, sono una sua Imperia. Vecchia conoscenza. Abbiamo qui si è sbagliato tra regioni, tra Liguria e la nostra Nadia Zammiti che mi Imperia invece Imola. Inizia per Ima è un'altra cosa. Va bene. Sì. Roberta, tanto la saluto, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire prima di incominciare il mio pensiero, se posso chiederle un chiarimento. Sì. Lei l'ultima volta che ci siamo sentite, quando io ho detto che faccio fatica ad andare avanti con 1.000 euro al mese, sì, mi ha paragonato a Dell'Utri che fa fatica a avere la benzina per l'elicottero. Sì. Era un'ironia, mi auguro. Secondo lei, Gina, detto proprio così tra noi due, secondo lei? Come? Secondo lei? Io mi auguro che fosse un'ironia. Beh, ma mi auguro di però sì. Non mi ha fatto piacere, ecco, io sono anziana, quindi si ricorda, Gina, era evidentemente una notizia proprio di quei giorni, no? di Dell'Utri che diceva a me i 40 milioni di Berlusconi che mi ha dato per comprare una casa, eccetera, in realtà non mi bastano, devo andare avanti, devo mantenere tante case, tanti figli, la benzina appunto per i miei mezzi di spostamento, eccetera, e siccome lei era entrata su quegli argomenti, io le avevo detto, pensi poverino che Dell'Utri, era per fare, insomma, creare un po' di empatia e compassione per Dell'Utri che lei evidentemente non ha sentito, Gina. Male, va bene, non fa niente, la perdono perché è tanto grazie. Brava. Senta Roberta, io volevo dirle il mio pensiero sì. sull'Ilva, a parte che non c'è paragone tra il lavoro e la salute, sono tutte e due cose essenziali nella vita. Certo. Io ho sulle tangenti che i Riva hanno dato a tutti i partiti, almeno così sembra. Cioè, io mi sono trovata a rileggere e a sentire le stesse cose di Tangentopoli quando appunto sono stati dati tutti quei soldi e quando ci sono state anche delle vittime innocenti che sono morte in prigione, che c'è stato Craxi che se n'è andato e tante altre cose. E però in questa circostanza nessuno ne ha parlato, né i giornalisti né anche la televisione. No, come Gina, ne stiamo parlando molto dei soldi che questi partiti hanno ricevuto. Sì, devo dire, io l'ho letto in questi giorni dal Fatto Quotidiano, sarebbero stati 98.000 euro a Bersani quando doveva diventare ministro dell'industria, 245.000 a Berlusconi, che diciamo, Bersani li ha registrati, per carità, dichiarati, ci mancherebbe altro, però poi ecco, il Fatto Quotidiano sta facendo una campagna perché li restituisca in questo momento, quindi io l'ho appreso prima di tutto da Ligina. Ti ringrazio comunque di averlo ricordato e se hai un qualche dubbio su qualcosa che ho detto richiama prima, non dopo qualche mese. Grazie Gina. Aldo, intanto prima di passare all'Ilva, che è un argomento che mi sta molto a cuore, volevo chiederti, ci eravamo lasciati prima della viabilità con la questione Sallusti, no? Che sembra voglia andare in carcere a tutti i costi, dice no, gli arresti domiciliari, è una questione di principio per te o come dicono i maligni, insomma, vuol diventare il martire della libertà di informazione? Ma guarda, io penso che nessuno dovrebbe finire in carcere. Anch'io. Per le proprie idee o per quello che ha scritto. Detto questo, siccome su quell'articolo erano contenute non soltanto delle informazioni molto gravi nei confronti del magistrato, e false, auspicava la pena di morte per lui, sì, farina. Ma c'era anche poi un errore oggettivo, perché si scriveva che il magistrato aveva costretto la ragazza ad abortire, ma aveva semplicemente così. Autorizzato l'aborto. Insomma, forse sarebbe stato più semplice riconoscere che era stato commesso un errore. Dico anch'io. Detto questo, la questione sul principio essenziale sono d'accordo, nel senso che nessuno dovrebbe finire in carcere per un articolo che ha scritto o, a maggior ragione, per un articolo che ha pubblicato in quanto direttore. Invece, sulla questione Ilva, prima di sentire Massimo da Milano, Hai sentito, no? Che i giudici proprio ieri sera, dopo questo decreto che il Consiglio dei Ministri, dopo ore di sedute, eccetera, eccetera, ha varato per far ripartire la produzione all'Ilva e nello stesso tempo però obbligare i Riva, a rischio che perdano la proprietà dell'azienda, obbligare i Riva a bonificare contemporaneamente gli impianti, però i giudici poi in serata si sono un po' ribellati dicendo questo vanifica la nostra inchiesta, questo non significa far partire la produzione, la bonifica degli impianti, che la situazione di rischio fortissimo di salute sia in qualche modo risolto, non è giusto, andremo avanti, fanno appunto ricorso per una possibile questione di incostituzionalità o di anche conflitto tra i poteri dello Stato, quindi da questa parte, da una parte il governo, dall'altra i magistrati. Che pensi tu di questa faccenda? No, penso che il decreto sia una via obbligata, perché non si può lasciare senza lavoro 5.000 persone, che diventano 20.000 con l'indotto, e poi, come è stato ricordato, in modo oggettivo, cioè dall'Ilva di Taranto dipendono tutta una serie di impianti in Italia, a partire di quello, Genova. Quello di Genova. Detto questo, è anche vero che non si può pensare che un'azienda vada avanti a produrre inquinando l'ambiente e assassinando chi ci lavora e chi vive nell'area attorno. Quindi penso che sia che i Riva, ma la storia tra i Riva e l'Ilva sia finita. Del resto la nostra Costituzione consente di nazionalizzare appunto i beni produttivi quando appunto in determinate circostanze, per cui credo che sia una via, non sia qualcosa in più di una minaccia. Penso che lo Stato si farà carico per qualche mese, ma qualche anno, dell'Ilva in attesa che ci siano dei nuovi compratori, già ci sono delle offerte dal Brasile, dall'India. Detto questo, io il giudizio sull'Ilva non lo devo improvvisare, perché se ne parla appunto nel libro, nell'Italia seria e destra. Io penso da una parte che dove si possa l'industria vada salvata, naturalmente non a costo di inquinare l'ambiente, le città, di far morire le persone. Ho visto anche migliaia di pecore che vengono portate al macello in questi giorni. Detto questo, bisogna dire con molto coraggio che il futuro, allora, l'Ilva e il Sulcis sono due cose diverse. Cioè, il Sulcis sono miniere che vengono tenute aperte da anni in perdita e con i soldi dei contribuenti, e quindi palesemente quella è una storia senza futuro. Mi spiace dirlo, quando si dicono queste cose vanno dette con molto rispetto per i minatori o per gli operai, che sono persone che hanno una loro storia, una loro identità, non è che gli si può dire semplicemente cercatevi un altro lavoro. Sono cose che vanno affrontate con molto rispetto. Detto questo, con altrettanta sincerità e rispetto, perché la sincerità significa rispetto, va detto che il futuro del Sud non saranno le miniere e non sarà neanche l'industria pesante. Con questo non voglio il dire turismo, che l'Ilva vada chiusa, penso al contrario, l'Ilva vada salvata. Detto questo, il modello di sviluppo del Sud non può essere l'industria pesante, a maggior ragione finanziata dal denaro pubblico. Quando noi parliamo di turismo, vedi, turismo è una parola che suona riduttiva, un po' come spumante, è una parola che indica una cosa buonissima, che però non è di moda. Turismo non vuol dire soltanto cuochi, camerieri, albergatori, e meno male che ce ne sono, e mi piacerebbe vedere anche più giovani italiani nelle cucine o nei ristoranti che non stranieri, ma il turismo vuol dire anche mettere in sicurezza il territorio, non è possibile che ogni alluvione venga giù tutto, vuol dire restaurare i monumenti, vuol dire fare funzionare l'industria dello spettacolo, vuol dire infrastrutture, investimenti, formare il personale, imparare le lingue. Quindi il turismo ha bisogno non solo di cuochi, camerieri, albergatori, ma di artisti, attori, ingegneri, architetti, interpreti, e c'è tutto un mondo dietro. E la Puglia lo sta facendo, lo sai Roberta che è venuta in Puglia, Bollywood, la più grande industria cinematografica indiana del mondo, a girare dei film. Prima sono andati in Svizzera e i turisti indiani sono andati in Svizzera, dove sono stati accolti con il calore che puoi immaginare. Poi hanno girato tre film in Puglia, tra il Gargano e il Salento. Sono arrivati i turisti indiani in Puglia, sono rimasti entusiasti. Già l'anno scorso 200.000 turisti indiani in Puglia, e già adesso ci sono più turisti indiani in Italia che italiani in India. Tra 10 anni, tra 20 anni ce ne saranno sempre di più. E con questo io non sto dicendo agli operai andate a fare camerieri, questo sarebbe un discorso ridicolo e sbagliato. Sto dicendo che il turismo è un sistema e la Puglia ci sta riuscendo, perché ha recuperato la sua identità, ha recuperato la sua cultura musicale, la sua cultura enologica. La Puglia è sempre stata la prima regione per vini in Italia come produttore di vini, però erano vini da taglio, considerati dozzinali, adesso sono grandi vini. E concludo, la Puglia una volta non era di moda, Modugno passava per siciliano e Arbore che di Foggia passa per napoletano. Che invece è sempre stata una strepitosa regione. A Negroamaro, a Checozzalone, che hanno la Puglia nel nome. È una regione straordinaria che già adesso si sta sviluppando e si svilupperà sempre di più, c'è spazio per l'Ilva in tutto questo, ma il futuro secondo me non è l'industria pesante, ma è un modello di sviluppo che mette insieme turismo, bellezza, cultura, agroalimentare e prodotti di qualità. Speriamo si capisca per tempo però. 800 24 00 24, Massimo da Milano. Sì? Sì, Massimo. Io avevo telefonato per parlare delle primarie, però ci sono degli argomenti che secondo me sono più interessanti. Sentiamo. Allora, prima cosa, volevo fare i complimenti a Cazzullo, sono perfettamente grazie, d'accordo con lui, e volevo dire che noi italiani non ci meritiamo la classe politica che abbiamo. Una volta dicevano gli italiani hanno la classe politica che si meritano, invece non, io su questo non sono non d'accordo. Te lo meriti tu, Massimo. Chi voti quindi, Massimo? Chi voti allora? Io voto Renzi. Allora, io potrei lasciare un attimo da parte le primarie? Sì. Ok, volevo parlare di... Le accantono un attimo qua, ecco, messe. Dimmi tutto, sì. Allora, io al professor Monti ho scritto una bella lettera e l'ho detto, caro professor Monti, io l'IMU sulla prima casa la pago perché è stato un errore toglierla. Sulla seconda pago con i numeri di codice di l'IMU, ma pago come dici. Io c'ho un ufficio, pagavo 640 euro, dovevo pagare 2100. E gli ho detto, se lei vuole andare a acchiappare i quattrini, lei deve fare una bella patrimoniale, e le dico io come si fa la patrimoniale. La patrimoniale si fa così: se uno ha un patrimonio e riesce a dimostrare che il patrimonio che ha è stato comprato con dei soldi tassati, lo devi tassare poco. Se uno ha un patrimonio e non riesce a dimostrare come l'ha guadagnato, gli dai una bella stangata. Massimo, tu l'hai messo il francobollo su questa lettera quando l'hai scritta a Monti? Gli ho data a mano. Ah, a mano? Quando l'ho incontrato? L'ho portata alla Bocconi, però non mi ha ancora risposto. Ah, vabbè, vedrai adesso con tutte le cose che ha da fare, poi diremo anche che cose ha da fare tra le varie priorità. Massimo, ti ringrazio. Aldo Cazzullo, tu la vedi bene messa così la patrimoniale? Tu dici che è possibile riuscire? Intanto ringrazio Massimo per le sue buone parole e sono perfettamente d'accordo con lui. Se la patrimoniale diventa l'ennesima tassa sul ceto medio dipendente, cioè su chi è riuscito a comprarsi la casa, il garage, magari una seconda casa, beh, allora è una tassa profondamente iniqua. Colpire i grandi patrimoni è difficile perché i grandi patrimoni sono già al sicuro alle Cayman, e mentre tassare il garage del lavoratore dipendente ci mette 5 minuti per andare a beccare a scardinare paradisi fiscali, vai da Obama, fai il G8, il G20, ci metti una vita, quindi alla fine i soldi si prendono dove si trovano più facilmente. Ma questo è profondamente ingiusto. L'idea di Massimo è interessante, vuol dire c'è patrimonio e patrimonio, c'è patrimonio che è stato messo insieme faticosamente pezzo per pezzo, generazione per generazione, risparmio per risparmio, e ci sono quelli che non pagano le tasse, che hanno fatto i soldi facili. Sarebbe importante distinguere. Un professore come Monti dovrebbe avere sensibilità per questa cosa. Io mi associo alla proposta di Massimo. Bene, Massimo. Massimo for President. Invece leggevo, a proposito di for President, c'è un endorsement, si usa dire così, insomma, nel senso si è esposta dicendo per chi voterà. Dori Ghezzi, un'agenzia che è uscita in questo momento, quindi mi va di leggere, visto che un ascoltatore diceva che noi facciamo la propaganda per Renzi. Dori Ghezzi, moglie di Fabrizio De André, dice: Bersani è il più indicato a premier, proprio così, molto secca, questo è il suo parere. Giulia da Siracusa all'800240024. Giulia, se mi dici il titolo della tua, oppure la tua notizia, così molto brevemente, ne riparliamo dopo la pausa. Praticamente io, ma non sono in onda, no? Sei in onda, attenta a quello che dici, Giulia. Sì. Perché praticamente io ho saputo che il presidente della Repubblica Napolitano si è aumentato l'altro ieri proprio fresca fresca lo stipendio di 8.800 euro. Fermati lì, ti sento non benissimo, ma riparliamo dopo. Non mi risulta, almeno mi è sfuggito tra le centinaia di migliaia di notizie che leggo, ma poi continueremo anche con le centinaia di telefonate che stanno arrivando a Nadia Zammiti e alla nostra Micole al centralino, ma a tra pochissimo. Bravissima pausa ed eccomi di nuovo qui, Roberta Giordano con voi, sempre Aldo Cazzullo, oggi come opinionista estemporaneo, giornalista, scrittore, inviato, editorialista del Corriere della Sera, che ha pubblicato per Mondadori, l'Italia seri desta, viaggio nel paese che resiste e rinasce. E ci ha detto insomma quali possono essere alcuni dei tanti motivi che lui raccoglie nel suo libro, nel suo viaggio, per avere un po' di fiducia ancora in questo paese. E, al numero verde, dicevamo, Giulia da Siracusa all'800240024, hai saputo qual è la fonte, Giulia, di questo aumento dello stipendio di Napolitano? Ma veramente anche io ascolto molto Radio 24, l'ho sentita forse giovedì o venerdì mattina da Milan. Poi dice che era sul Libero a pagina 4. Quindi probabilmente nella rassegna stampa. Infatti nessuno vuole credere una cosa simile, perché 8.800 euro, quindi il presidente napoletano che è un comunista, noi non ce l'aspettiamo una cosa del genere, se è vera. Io penso che sia vera, perché la fonte è questa. Io dico, senti, ma è possibile che sia all'anno questo stipendio? Perché? Ma lui doveva abbassare tutto, non che dice lasciare. Lui già quello che ha da comunista doveva anzi diminuire tutto ciò che ha, fare una vita semplice, diversa da tutti gli altri. Senti, politici, perché è un comunista. Lui sta Giulia, e va via a testa bassa. Giulia, anche non, tu stai andando a testa bassa. Sta bene questo. Aspetta un attimo, Giulia, mi ascolti un momento per favore. C'è Nadia Zammitti che sta ricevendo le vostre telefonate, che ha controllato adesso e mi ha detto che in realtà è stata smentita dal Quirinale questa notizia. È stata smentita? Allora, che se io infatti veramente ci soffrivo questa storia, dico ma come? No, non soffrire la devo più, far perché... sapere, è una vergogna, speriamo che non sia vero allora. Guarda, controllerò... Il napoletano veramente ci sta deludendo se è veramente così. Perché è un comunista, ora Bersani dice che avrà poi dopo tre vitalizi, Ventola che figlia 19.000 euro, ma dov'è la sinistra? Ma insomma, la sinistra significa dare esempio di vita semplice, di vivere con umiltà, comparire non con vestiti dispendiosi, senza macchine. Giulia, ma tu sei, Giulia, sei di sinistra o di destra tu? O di mezzo o di dove? Di che schieramento appartieni? Che orientamenti politici hai, se posso chiederti? Allora, io praticamente apprezzo la semplicità, l'umiltà, tutte queste cose. Quindi, sì, logicamente, non saprei dove votare perché non trovo nessuno che... In questo momento incarni, diciamo, queste... I comunisti non ci sono più, perché logicamente per comunque significa lavorare, vivere con semplicità, vivere... Giulia, comunque ti devo dire, rassicurati almeno per il momento, poi controllerò di persona finita la trasmissione, pare che ci sia stata questa smentita, nel caso se vuoi anche ti chiamo, grazie Giulia. E passerei, anzi no, mi dice il nostro Paolo Corleone che noi abbiamo il nostro unico al mondo, unico in tutto l'universo collegamento con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Via di notizie negative qua su da Marte, osservando il globo terracqueo. Se ne sono viste e sentite anche questa settimana, ma non facciamo di tutte le erbe un fascio. Va infatti riconosciuto che in realtà, nonostante una crisi falcidiante, non tutti i settori sono in difficoltà, diceva anche prima Aldo Cazzullo, ma in realtà ce n'è uno che non conosce crisi, quello dei Kalashnikov. Ma sì, il celebre fucile mitragliatore protagonista nelle guerre di tutto il pianeta. Ah, che musica per le orecchie umane! E sì, almeno quello è un mercato fiorente. C'è stato ultimamente un vero e proprio boom di esportazioni e l'83% degli ordini viene dagli Stati Uniti. Ma per il resto è crisi nera, tanto che da un pochino si sta chiedendo ai parlamentari italici di fare un piccolo sforzo e rinunciare almeno a qualche spicciolo del loro esiguo stipendio. Ebbene, loro ce l'ha messa tutta! Giovedì erano pronti a convertire in legge il decreto sui costi della politica, ma una notizia ha improvvisamente travolto le menti dei parlamentari, ha seminato panico e un fuggi-fuggi generale. La notizia era lo sciopero dei trasporti. Come potevano infatti loro, abituati alla settimana corta, pensare di lavorare anche il venerdì e magari restando bloccati a Roma financo il sabato? Eh no! C'è lo sciopero dei mezzi, quindi si rimanda il voto. Che via, diciamolo. È un po' quello che capita a tutti voi umani, no? Quando c'è sciopero dei mezzi, niente lavoro e tutti a giocare a 3-7 e a fare zapping davanti alla TV, o no? E a proposito di politica, che passione in questi giorni. Nel PD s'azzuffano sulle regole come si faceva da piccoli col Monopoli. Ma no, abbiamo detto che si giocava così, ma no, abbiamo detto che funzionava così. Insomma, un divertimento. Dunque, chi non ha votato al primo turno, vota o no domani? O deve portare una valida giustificazione per il fatto che aveva latitato al primo turno. Tipo, giustificazione del tipo, ho un gatto, si chiama Porfirio. La mattina del primo turno mi stavo preparando per venire a votare con grande entusiasmo, ma appena apro la porta, Porfirio sgattaiola via. Sgattaiola, essendo un gatto, naturalmente. Lo inseguo per la strada, driblo due auto, la terza inchioda causando una serie infinita di tamponamenti. Gli automobilisti inferociti inseguono me e anche Porfirio, che terrorizzato salta addosso un tizio che aveva appena acquistato un vaso Ming del IV secolo avanti Cristo, che naturalmente ne è uscito a pezzi. La fila di inseguitori si fa quindi più folta. Qualcuno della fila urta un ponteggio che crolla, senza per fortuna causare feriti ma diversi disguidi. A quel punto non mi resta che rifugiarmi seguendo il gatto nella mia salumeria di fiducia, camuffandomi tra le mortadelle sino a sera, sperando tra l'altro che Porfirio non finisca affettato. Potrebbe dunque essere, secondo i garanti, una sufficiente giustificazione questa per non aver votato al primo turno? In ogni caso, sempre restando sulla politica, questo povero governo tecnico è talmente subissato di mastodontici problemi, la crisi che non demorde, la disoccupazione che si impenna, il record dei precari, gli esodati, l'ILVA, insomma così angosciantemente schiacciato il governo da tutte queste priorità, e cosa fa il governo dei tecnici? Mercoledì ha trovato il tempo per fare ricorso contro la Corte di Strasburgo, corte che mesi fa aveva bocciato la legge 40 italiana sulla fecondazione assistita nella parte in cui vieta alle coppie fertili ma portatrici di malattie genetiche di accedere alla fecondazione e alla diagnosi preimpianto. La Corte europea diceva: è una grave discriminazione questa nei confronti delle coppie portatrici di malattie genetiche, quella di vietare loro la diagnosi preimpianto per evitare poi un aborto. Ma il governo tecnico ha ritenuto che tecnicamente la Corte europea di diritti dell'uomo non dovesse tecnicamente ficcarci il naso in questioni italiche. Ma non è questo il governo europeista per antonomasia. Insomma, i problemi sono tanti, angustianti, opprimenti, tanto che la Curia di Milano, cosa ha fatto questa settimana? Ha istituito un centralino attivo dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 17, per chi cerca un esorcista. Torniamo coi piedi per terra, sulla terra, che forse è meglio, e sentirei all'800240024 Gabriele da Bergamo. Pronto? Gabriele? Buongiorno. Buongiorno a te. Sì, pronto? Sì. Io volevo intervenire a proposito della legge che permette il riconoscimento dei figli naturali. Sì. E volevo dire che mi sembra un passo in avanti, insomma, rispetto alla situazione come era prima. Beh, sì. L'unica cosa che non ho ben capito è che mi sembra di aver letto che questa legge riconosce questa possibilità, sì, anche per i figli nati da incesto. Non solo, ma anche da abuso in generale, dall'incesto o da abuso, violenza. Quindi. E mi domandavo se anche questo aspetto è davvero un passo in avanti, tanto più che domenica scorsa era anche la giornata, diciamo, per le donne, per la difesa, insomma, o contro la violenza sulle donne, insomma. Sì. E quindi mi sembrava che su questo aspetto forse si poteva ragionare con più attenzione e magari introdurre delle differenziazioni o comunque delle limitazioni. Guarda, sì, posso, Gabriele, rimani. Posso essere d'accordo con te, nel senso che poteva essere trattata a parte, come una cosa a parte, non mischiata, diciamo, in questo calderone comunque positivo. In ogni caso, credo che i figli, comunque nascano e dovunque nascano, una volta che sono al mondo, vadano in qualche modo garantiti. Mi ricordi, tra l'altro, appunto, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che era domenica scorsa, e proprio in quel giorno, voglio quindi ricordarlo, approfitto della tua telefonata per dire che un ascoltatore mi aveva mandato un'email scandalizzata, io gli ho dato ragione, sul fatto che proprio quel giorno, era stata emessa una sentenza da un tribunale del Veneto che assolveva una coppia di genitori nigeriani che avevano infibulato le bambine, cioè sapete, no? Tagliare la clitoride, fare vari cucire, eccetera, insomma praticamente devastare l'organo femminile. E c'è una legge in Italia, l'aveva, se non sbaglio, varata la ministra dell'allora pari opportunità Prestigiacomo, che vieta e condanna questa pratica ignobile che si pratica soprattutto in alcuni paesi africani. In Italia questa cosa non deve succedere, e invece con questa assoluzione si crea non solo una un atto veramente inqualificabile nei confronti di queste bambine, perché la motivazione era questa folle, cioè nel loro paese poi sarebbero discriminate in Nigeria, no? Una cosa pazzesca, ma crea un precedente pericolosissimo a proposito di figli, pericolosissimo, perché se questi sono stati assolti anche gli altri penseranno, clandestinamente o meno che lo facciano, poi di impugnare nel caso fossero condannati questa sentenza, cioè loro l'hanno fatto, sono stati assolti, perché non lo facciamo, quindi di perpetuare questa cosa terribile. A proposito quindi di figli, che dice Aldo Cazzullo? Tu come l'hai vista questa cosa dell'inserire anche figli derivanti da abusi o da incesto dentro? Sarebbe stato meglio prevedere una norma che stabilisce che lo stupratore non ha diritto alla paternità, a rivendicare la paternità. Sono d'accordo con l'ascoltatore, così come sono d'accordo quando fate notare che l'infibulazione in Italia non deve essere assolutamente tollerata, perché oltre ad essere una cosa orrenda su un corpo di una bambina che sarà una donna infelice e invalida in qualche modo, ma poi, non solo, ma poi è lo specchio di una mentalità da cui ci abbiamo messo dei secoli, appunto, per uscirne, la paura della donna, il sospetto nei confronti che la donna abbia diritto a una sua libertà, a una sua scelta, a un suo piacere, a un suo desiderio fisico. E ci abbiamo messo dei secoli a uscirne, ecco, non abbiamo proprio bisogno di qualcuno che ci faccia ripiombare indietro. Quando dicono, a proposito del velo ad esempio, ma anche le nostre nonne mettevano il velo, appunto. Ci abbiamo messo anni, molto tempo, generazioni per affrancare le donne dal velo. E troppo spesso, chi vuole se lo mette, la carità, ma fuori dalla chiesa, ecco. Troppo spesso, Aldo, si dice, ma questa fa parte di un'altra cultura, a volte si maschera di cultura altra l'intollerabile, perché sono intollerabili queste cose. Io sono favorevole al mondo globale, ma noi possiamo, lo dicevo prima, no? È la tesi fondamentale dell'Italia Seria Destra. Il mondo globale è una grande opportunità per noi, però lo dobbiamo affrontare consapevoli di chi siamo, della nostra cultura, che non vogliamo imporre a nessuno, ma ne vogliamo neanche che ci vengano sopraffatti dei valori che abbiamo costruito nei secoli. E la parità tra uomo e donna e anche la libertà sessuale è un valore che comunque sarà anche contraddetto dalle varie religioni, ma di fatto è una cosa che è ampiamente riconosciuta nella nostra società. E impedire a priori con un'operazione chirurgica questa parità, questa libertà è qualcosa che non possiamo assolutamente accettare. 800 24 00 24, Mario da Verbania sul Lago. Mario, buongiorno. Buongiorno Mario. Ho sentito una cosa interessante circa la patrimoniale, che approvo al 100%, è l'unica formula seria che potrebbero adottare, ma non era questo l'argomento. No. Senta, io l'Ilva la conosco bene, non dico di averci lavorato, ma ero sono un ingegnere siderurgico, in Ilva ci ho vissuto come ospite e quant'altro. Inquina meno di tante colleghe, anche europee, attuali. E che le nostre leggi sono, scusate, improprie per chi deve produrre. Mario, sì? Come facciamo a dire queste cose? Di fronte a tanti morti all'anno. Sì, aspetta, fermo. No. Io dico, spostiamo la gente se proprio dobbiamo avere 2 anni di moratoria. Se c'è una zona particolarmente a rischio, è giusto che la gente, come se fosse stato un terremoto, l'avremmo dovuta spostare. Vabbè, li spostiamo, intanto produce. Dove li spostiamo, Mario? Sono migliaia. Senta, la Puglia è bellissima, io la conosco e la amo. Appunto, non avveleniamola così. No, nel senso, l'Ilva deve continuare a produrre, ma possibilmente, come diceva Aldo Cazzullo, magari riprendendosela allo Stato, visto che fino a qualche anno fa era dello Stato, poi è stata comprata, anche svenduta, qualcuno dice, ai Riva, e si prende allo Stato finché non trova un altro compratore la responsabilità, se possibile, di far andare avanti la produzione e soprattutto di bonificare gli impianti, di fare in modo che non continui a gettare veleni, dicevi Aldo? È palese che non si possono deportare i tarantini, va bene tutto. Cioè, che l'industria siderurgica comporti un tasso di inquinamento probabilmente inevitabile. Sicuramente l'Ilva è andata ben oltre questo tasso di tolleranza, è una storia decennale di sofferenze, di tumori, anche poi di conseguenze magari non letali, tipo l'endometriosi, sono comunque cose che ti segnano la vita, che non puoi avere figli, di grandi anche sofferenze. Mario, ti ringrazio, ma adesso abbiamo un appuntamento che non possiamo naturalmente tralasciare con il nostro Don Severino da Potenza. Ciao Don Severino, la tua notizia. Ciao Roberta. Ciao Roberta, hai fatto molto bene a dire una notizia, cioè quella della diocesi di Milano. E allora, ecco, sarebbe opportuno che la diocesi di Milano mandasse un esorcista a Taranto dal segretario del vescovo che prendendo i suoi bei soldi ha avuto la spudoratezza, intervistato, di parlare come parlano i nostri politici. La magistratura farà, dirà. È veramente ancora di più vergognoso questo atteggiamento davanti appunto ai morti e alla situazione. Poi volevo lanciare un appello, perché nessuno parla di questo. A Milano c'è Alba Dorata che si vuol presentare per le prossime elezioni regionali. Partito di estrema destra che sta in grecia. Esatto, per favore lancio questo appello. Scrivete al Presidente della Repubblica, ai prefetti, che non avvenga questo, perché è l'inizio del nuovo fascismo nascente. Grazie. E questo era Don Severino. Invece ora ci appropinquiamo verso Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma. Ciao Valeria, alla quale sottopongo come termine questa settimana, che è particolarmente, diciamo, pertinente, stangata. Si parlava del lingua. Sì, stangata, sì, sempre di attualità. Allora, qual è la storia della parola? Stangata in origine nel 600 voleva dire solo colpo di stanga dato a qualcuno. Poi dagli anni 40 del 900 si è aggiunto il nuovo significato di spesa superiore al previsto, quindi danno economico, no? Dare, prendere una stangata. E dagli anni 60, sempre del 900, se ne è aggiunto un altro ancora, quello di sacrificio economico, che in genere non è previsto, richiesto alla collettività dallo Stato attraverso un aumento delle tariffe, delle tasse, eccetera. E quindi ecco la stangata fiscale. Ora tralascio il significato nel gioco del calcio, tanto gli appassionati lo conoscono, per concludere che dalle stangate di vario genere alle quali siamo sottoposti ci si può consolare solo con il ricordo della stangata come titolo italiano di un celebre film del 73, no? E della musica che lo accompagnava, quel bel film Robert Redford e Paul Newman. Però quel film, ecco dove è il punto, raccontava che cosa? La storia di un colpo, di una truffa addirittura. E così ecco che la parola da allora evoca questo nuovo valore, un valore negativo che in origine la parola in sé non aveva. Grazie cara Valeria Della Valle. Grazie, grazie. Carmine da Barletta, riesce a essere molto sintetico, Carmine, vero? Sì, pronto, buongiorno Alberta. Sì. Senti, voglio parlare in merito, avevo qualcosa da dire in merito, prima se un discorso sui beni culturali che possono essere il volano di sviluppo del mezzogiorno. Insomma, io però nei beni culturali sono 10 anni, mi occupo di incoming, di promozione, di sviluppo del territorio, insomma, per cercare un po' di, non solo di promuovere a livello turistico, ma di creare un lavoro, di una sorta di reddito, usando... Ti si sente tanto male, sono contenta che chiami da Barletta, ne parlava tanto bene della Puglia ridesta poco fa Aldo Cazzullo, ma vediamo se si riesce a sentire un pochino meglio, ma un po' disturbato. Insomma, da anni lavori nei beni culturali, nella valorizzazione dei beni culturali. Carmine, perdonami, ti sente proprio malissimo. Aldo Cazzullo, abbiamo parlato un po' dei primari del PD, pronostici, vedo sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, senza farlo apposta, tanti che voteranno Renzi o comunque preferiscono Renzi sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, e poi tanti pareri negativi anche su questa sentenza, su questo ricorso del governo italiano appunto contro la Corte di Strasburgo. Ricordatevi che c'è sempre questa pagina Facebook per i vostri commenti, poi io me li leggo tutti e potete anche andarli a vedere. Anche gli scettici, diciamo, sulle primarie possono andare a leggere effettivamente quelli che sono i commenti delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Ma sulle primarie del PDL stanno ancora sfogliando il cavolfiore, Aldo? Beh no, ormai è palese che non si faranno più, perché Berlusconi vuole giocarsi la partita in prima persona. Secondo me ha un potenziale elettorale, ce n'è ancora. Anche secondo me. Il fatto che ci sono un sacco di italiani che sono insoddisfatti della politica di Monti. E quindi farà una campagna, chiudiamo. Però non gli è bastata la politica di Berlusconi, secondo te? Credo però che Berlusconi sia profondamente screditato dai suoi anni passati al governo, quindi ripeto, la destra ha un potenziale elettorale ancora molto forte, credo però che Berlusconi non sia l'uomo più indicato per raccoglierlo. E per rispondere più in sintesi alle varie cose che sono uscite fuori, anch'io penso che sia molto sbagliato il governo aver fatto ricorso, per il semplice fatto che quella norma che vieta la diagnosi preimpianto, ma poi con il ragionamento implicito che tanto poi c'è l'aborto, è qualcosa di veramente orrendo, che andrebbe eliminata. Sulle primarie del PD, se fosse un voto veramente libero, se chiunque potesse andare al secondo turno, secondo me vincerà Renzi, ma secondo me non è così, probabilmente vincerà Bersani, ma credo che da quello che abbiamo intuito però dall'intervento da Barletta, lui stava dicendo sono anni che lavoro in beni culturali e facciamo fatica a far fruttare questo lavoro, però c'è tentaccio, guarda che abitano in un posto veramente meraviglioso, la mitica Bat, Barletta, Andria, Trani, e poi c'è Castel del Monte, e poi c'è bellissima Bicelli, quella è zona, i posti Aldo, più belli della terra, però possiamo farlo fruttare, possiamo proprio, infatti, dire che non ce la facciamo, ci manca qualcosa, li conosco, sono bellissime, l'Italia è veramente tutta bella. Aldo, però ti voglio fare una domanda adesso, senza inciuci, senza ambiguità, senza cerchiobottismo, mi devi dare una risposta netta, va bene? Netta, non un po' questo, un po' quello, no, netta, voglio veramente la tua risposta. Ma non è mia abitudine. No, aspetta, non lo faccio fatica. No, ascoltami, risposta netta. Tra albero e presepe, mi devi dire, perché sai che Ciriaco De Mita al Parlamento Europeo ha detto basta con questo albero, sempre albero, bisogna rispettare anche le tradizioni del sud, ci vuole il presepe, e vogliono imporre proprio con una petizione il presepe. Scegli, albero o presepe? Presepe. Grazie Aldo Cazzullo. L'Italia si ridesta è il suo libro Viaggio nel paese che resiste e rinasce. Se lo dice lui, evidentemente ci possiamo credere. Da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.